Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Siete all'ascolto della seconda parte di Ponte Radio. Con me c'è Raffaele che saluto. Ciao Raff. Ciao, ciao a tutti e a tutti. In questa seconda parte parleremo di Campi Flegrei, che ricordiamo che è un'area piuttosto vasta, i cui limiti partono da Napoli Ovest, con quartieri piuttosto popolosi, come Bagnole, Agnano, Fuorigrotto e Pianura, per arrivare poi a includere i comuni di Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli e Quarto. E i Campi Flegrei sono interessati da e caratterizzati da un vulcano principale, anzi da più vulcani, che stanno all'interno di un'area depressa che viene chiamata caldera. All'interno di questa caldera, la caldera è soggetta ad una lenta deformazione del suolo, il cui nome è bradisismo. Negli ultimi, anzi, a partire dal 2005, dopo le prime due crisi forti, dal 70-72 e dell'82-84, c'era stato un periodo di acquiescenza, di stasi del fenomeno bradisismico. Però dal 2005 c'è stata un'inversione del fenomeno che ha portato ad un costante sollevamento del suolo che al momento è ancora in atto e soprattutto negli ultimi 2 anni c'è stata una forte attività sismica. E per parlare proprio dei Campi Flegrei e dell'attività bradisismica, il nostro ospite è Dario, del collettivo Iskra e attivista dell'Assemblea di Bagnoli dei Campi Flegrei. Ciao Dario! Ciao a tutti e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Mario, iniziamo Mario, subito iniziamo con subito la con una notizia che notizia che abbiamo abbiamo letto letto dai media nei locali oggi, media ovvero quello della microzonazione. Ci spieghi che tipo di attività e che studi verranno fatti? Allora, è un'attività che come Assemblea Popolare abbiamo individuato dall'inizio come elemento fondamentale perché la microzonazione è quello che porterebbe a sapere, a comprendere il rischio delle singole aree dei Campi Flegrei con una maggior precisione. Il problema è che questo atto non è che dovrebbe essere, avrebbe dovuto essere stato antecedente alle ultime scosse, in genere in realtà dovrebbe essere il primo atto da compiere per mettere in sicurezza il territorio, non è surrogato, non è suffragato da un sostegno sia giuridico che economico adeguato, perché sappiamo che attualmente la messa in sicurezza di cui parla il governo è esclusivamente quella vulcanica e non include quella sismica. Quindi ovviamente in mancanza di una messa in sicurezza che sia tanto vulcanica in caso di eruzione quanto è più importante in questo momento, dato il fenomeno delle scosse sismica, attualmente la microzonazione rischia di essere una misura necessaria, doverosa, ma incompleta, cioè che sostanzialmente non va davvero a includere tutto il resto, a includere la popolazione, ad aiutarla, ma invece andrà solo eventualmente ad escluderla perché creerà eventualmente nuovi sfollati, nuovi elementi per mandare via le persone dal territorio. Senti Dario, ti chiediamo, diciamo, anche gli ultimi aggiornamenti sia sulle attività sismiche, sia sulle ultime vostre assemblee, anche perché la settimana scorsa avete fatto parecchie cose tra assemblee cittadine e manifestazioni. Allora, per quanto riguarda le ultime attività sismiche, le principali si sono verificate nelle aree verso Pozzuoli. Non è un caso che proprio a via di Pozzuoli, poco dopo il dazio, sia stato sgomberato un nuovo palazzo che finora non era stato valutato come a rischio, proprio perché i fenomeni sono verificati più spostati verso Pozzuoli. Questo significa che quindi la cittadinanza di Bagnoli, di Agnano, le ha ravvisate, le ha avvertite, ma già se ci spostiamo verso Fuorigrotto, verso il centro di Napoli, diventano raramente avvertite o addirittura non avvertite del tutto. Contemporaneamente a questi fenomeni, per quanto riguarda l'Assemblea Popolare, in generale, le mosse delle varie realtà dei Campi Flegrei, attualmente lo scopo è stato riprendere le fila del discorso, che inevitabilmente con l'estate si è un attimo, siamo presi, avevamo tutti bisogno di un momento di respiro e diciato. E sostanzialmente abbiamo fatto una grossa Assemblea Popolare 2 settimane fa ormai a Bagnoli. L'obiettivo sostanzialmente sono state già individuate 2 date di azione. La prima è quella in cui il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Ministro dell'Istruzione Valditara, verrà a Bagnoli a inaugurare l'anno scolastico e probabilmente a visitare l'infame carcere come tutte le carceri di Nisida. Sostanzialmente quindi verrà il presidente Mattarella. L'Assemblea Popolare ha richiesto un incontro per ribadire la questione di fondo, cioè che le misure attualmente in campo non sono bastevoli, sono fortemente discriminatorie, creano discriminazioni addirittura non solo tra le singole aree dei campi Fairgrey, Bagnoli rispetto Pozzuoli rispetto Monteruscello, per citarne alcune, ma addirittura creano all'interno delle singole aree forti discriminazioni tra chi si è trovato per esempio a essere sfollato, chi invece ha per sua sfortuna paradossalmente avuto solo dei danni alla casa, che però possono essere anche danni che pregiudicavano la vivibilità complessiva dell'abitazione, cioè si poteva entrare per esempio stare in una stanza, non stare in un'altra. Quindi questa è la linea dell'Assemblea Popolare. Ovviamente la venuta del Presidente della Repubblica e poi accompagnato da un ministro dell'istruzione che sta approvando, entrambi hanno approvato DDL estremamente negativi per N motivi, movimenta tutta Napoli e tutta l'area flegrea, e ci aspettiamo quindi una grande partecipazione. A proposito di partecipazione, a Bagnoli poi abbiamo tenuto altri due momenti pubblici. Il primo durante la festa patronale, in cui anche una delle parrocchie di Bagnoli ha riconosciuto la necessità di parlare del problema del bradisismo e ha ribadito la volontà di voler restare su questo territorio, su questa terra dove siamo nati, e quindi con buona pace della linea governativa per esempio portata da Musumeci e soci, secondo cui saremmo tutti abusivi, che poi anche lì ci sarebbe una questione di responsabilità dello Stato di non aver pianificato, di aver rilasciato permessi a chiunque per poter costruire su questi territori, fregandosene bellamente dei rischi che potevano esserci. Dall'altra, ovviamente, c'è l'altro elemento, è quello di prendere posizione anche delle parrocchie, quindi di un mondo che trascende un mondo militante, quello che sui giornali viene definito come i black bloc, gli amici di Hamas e così via, ma bensì tiene la pancia alla vivacità della gente. E non è un caso, a proposito di vivacità delle persone, domenica scorsa gli abitanti di Bagnoli, circa 2-3 mila persone almeno, forse anche di più, hanno invaso le strade del quartiere e poi raggiunto il pontile di Bagnoli per ribadire il loro sostegno al popolo palestinese, quindi la vicinanza a una popolazione che sta venendo massacrata ed è vittima di un vero e proprio olocausto, ormai genocidio fino a qualche tempo fa. E anche lì si parla molto di come il governo italiano abbia prontamente destinato, non appena sono arrivati i desiderata della NATO e dell'Unione Europea, denari per le guerre e l'economia di guerra, e invece non si possono trovare soldi per questo territorio per metterlo in sicurezza. Quindi queste sono le linee che si stanno muovendo, e noi avremo il primo appuntamento lunedì 22 all'ex base NATO dalle ore 15, e poi l'altro appuntamento in realtà su cui andremo sicuramente è il consiglio comunale monotematico che il comune di Napoli ha convocato su Bagnoli, un consiglio monotematico sull'America's Cup, che sta diventando la nuova occasione di speculazione sul territorio. Abbiamo saputo proprio dai ragazzi che andranno sempre lunedì, saranno in piazza con noi per contestare il ministro Valditara, che gli studenti dell'area flegrea avranno la grande occasione di poter lavorare gratuitamente con l'alternanza scuola-lavoro per gli atleti dell'America's Cup. Ci sembra veramente l'emblema di che cosa, di quale sia il ritorno di questi grandi eventi, che poi sappiamo bene come vanno a finire, come è finita con l'inchiesta di Milano, rimedito all'Expo, a Torino con il Villaggio Olimpico. Quindi anche lì ci stiamo schierando contro una speculazione del territorio bieca, cieca, che sostanzialmente asfalta, letteralmente in questo caso, perché vogliono asfaltare la colmata, i desiderata del territorio, che anche lì sono chiari. Il territorio ha bisogno di spazi verdi, di aree, di spiagge, di luoghi dove poter andare per il tempo libero, ma soprattutto anche di dove potersi rifugiare in caso di una scossa di terremoto. È ovvio che se io costruisco il Villaggio Olimpico devo scappare anche dal Villaggio Olimpico, e avremo più persone da dover sfollare in caso di scossa o peggio, in casi peggiori. Al contrario, se creiamo un bosco e una spiaggia, abbiamo un luogo dove poter andare in sicurezza e attendere che la situazione si calmi, o eventualmente costruire delle aree rifugio come è accaduto nell'ex NATO, che però, lo ricordo sempre, è stata aperta perché gli abitanti l'hanno individuata come miglior luogo dove poter stare al sicuro, perché se avessimo aspettato le istituzioni questa cosa non sarebbe avvenuta. Prima tu parlavi proprio che c'è stato un ultimo sgombero, ma in questi anni quali sono state le principali criticità proprio nella gestione, nella ricollocazione abitativa delle famiglie coinvolte? La principale è stata la non gestione, cioè il fatto di sgomberare, mandar via le persone senza che lo Stato e le istituzioni si impegnassero a garantire il diritto al ritorno. Sembra Ovviamente sembra quasi ironico che mentre leggiamo dei palestinesi che hanno anche loro lottano per il diritto al ritorno, anche qui si debba lottare per il diritto di poter tornare nelle proprie abitazioni. Attualmente, ancora oggi, chi è sfollato a Bagnoli riceve un contributo all'affitto minimo, bastevole in teoria solo ad affittare un piccolo appartamento nella migliore delle ipotesi, ma non certamente a Bagnoli, dato che è in atto una speculazione dovuta al turismo e alle trasformazioni della città di Napoli, ma a stento si riesce a affittare nelle vicinanze dell'area Flegrea, dove poi c'è stata un'altra forma di speculazione legata al fatto che molta gente ha voluto abbandonare il territorio e andare a vivere nelle vicinanze, non potendo cambiare lavoro, non volendo cambiare scuola ai figli e così via. Quindi attualmente c'è solo questo contributo all'affitto, dopodiché viene tutto demandato all'autogestione delle persone, chi ha la possibilità di appoggiarsi a parenti, ad amici, chi ha la possibilità di pagarsi i lavori di messa in sicurezza. Non ci sono però attualmente altre forme di sostegno, quindi proprio per questo viene tutto demandato ai singoli e alle singole ed è il motivo per cui noi temiamo. E devo dire, maliziosamente sospettiamo anche che questo fenomeno, questa recrudescenza del bradisismo, un fenomeno ciclico, lo ricordo, sia invece un modo per eliminare gli abitanti del territorio, rendere questo territorio cominciarlo a svuotare per poter poi specularci sopra, creare sostanzialmente un'area che non sarà il centro storico di Napoli, non sarà la Napoli friggi e fuggi a cui ci hanno abituato, ma sarà un'altra forma di speculazione verso il turismo di lusso. Vedasi appunto i progetti rifatti per America's Cup che richiamano tanti progetti speculativi che risalgono al governo Renzi, per esempio, quindi casinò, hotel, porti, diportistica di yacht, di barche di alto livello, ma non certo quello che serve agli abitanti, tanto dell'area Flegrea di Bagnoli quanto del resto della città di Napoli. Infatti sì, uno dei progetti era quello della, diciamo, riqualificazione del porticciolo che sta tra Bagnoli e Nisida, no? Era proprio quello uno Esatto, dei progetti. esattamente. Quello è un emblema. Quel porto viene reinquadrato nella forma di una diportistica molto più grande. Certo, non si tratta della diportistica delle navi da crociera, quelle continueranno ad arrivare nel porto di Napoli, ma si tratta di un tipo di diportistica al servizio di chi non solo ha una barca a mare, ma ha una barca di una certa importanza. E basta vedere chi sta arrivando a Napoli, dal Napoli Basket con Shaquille O'Neal ad altri bellimbusti imprenditori, prenditori direi io, che vengono qui a passare le Esatto. loro vacanze. Infatti alla fine, cioè, la fascia della popolazione che sarà più diciamo, colpita sarà quella medio-bassa Certamente. e avete fatto anche, diciamo, perché quando ci sono questi grandi eventi, la prima cosa che ti dicono è però noi portiamo il lavoro. Io invece io sono sempre stato convinto che quando arrivano questi eventi il lavoro viene perso in realtà quei lavori sicuri. Voi avete studiato un po' anche questa dinamica? Sì, non solo l'abbiamo studiata, ma noi la seguiamo da vicino perché qui Bagnoli è uno dei nuclei fondativi del movimento di lotta disoccupati 7 novembre e anche lì abbiamo visto come lo Stato vorrebbe gestire la questione del lavoro e la giusta richiesta, la giusta lotta di poter avere un lavoro stabile, garantito e dignitoso, quindi che dia una stabilità economica. Quello che succede è che qui nel territorio attualmente noi abbiamo una forte disoccupazione estrema dal punto di vista giovanile, motivazione che porta poi o a fenomeni di microcriminalità estremamente localizzati ma comunque presenti, oppure dall'altra parte il forte abbandono, quindi un vero e proprio esodo. C'era chi diceva una volta la fuga dei cervelli, ma qua è fuga appunto perché molti ragazzi e molte ragazze non hanno altre possibilità di vita. L'ironia è che con l'America's Cup in questo caso poi ci vengono incontro, hanno scelto di rendere già pubblica la possibilità di fare il PTCO, quindi l'alternanza scuola-lavoro, al servizio degli alberghi, della ristorazione, insomma, tutti i lavori che sappiamo essere già di per sé in questo momento, quindi vedendo nelle aree di Pozzuoli, di Bagnoli, dove noi abbiamo tenuto per molti anni uno sportello a sostegno delle persone che si trovavano a lavorare a nero per aiutare, per fare in modo di uscire da questa situazione, il che vuol dire anche saper richiedere i propri diritti, che spesso e volentieri sono ignorati dai lavoratori e dalle lavoratrici nostrane, sia soprattutto per quanto riguarda il centro storico, dove sappiamo bene la maggioranza dei lavoratori e delle lavoratrici della ristorazione, del settore alberghiero e di tutti i settori che hanno a che fare col turismo sono, alla migliore ipotesi, dei lavoratori stagionali e delle lavoratrici stagionali. Nella peggiore sono non solo stagionali, ma sono malpagati, ipersfruttati, con orari incredibili e altri episodi che non parliamo. È emblematico in questo senso anche il caso del che aveva anche a che fare con casi di violenza sessista, il caso della Napoli Sotterranea, poi appunto condannato, il fu proprietario di Napoli Sotterranea, ma anche lì poi messo nel dimenticatoio come cosa. Purtroppo questo fenomeno qui a Bagnoli attecchirebbe in maniera estrema, prevediamo che veramente potrebbe coinvolgere la netta maggioranza della popolazione dei ragazzi e delle ragazze, e che porterebbe quindi ovviamente a un'ulteriore precarizzazione di chi abita questi territori. Per quanto riguarda chi è più adulto, invece, i pochi dati che abbiamo sono quelli di una popolazione, appunto, per lo più persone della classe medio-bassa, cioè persone che lavorano da dipendenti in vari posti, per lo più supermercati, piccole attività, piccoli negozi, tutti negozi, tutte realtà che inevitabilmente con la combinazione bradisismo e trasformazione imposta con l'America's Cup probabilmente chiuderebbero, perché ovviamente un piccolo bar o un piccolo negozio, il turista di lusso che viene a vedersi la mega barca a mare o a visitare, anzi, perché non, le barche non starebbero a Bagnoli, ma verrebbe a visitare il villaggio olimpico, probabilmente non ci va proprio dal negozietto. La persona che se ne va per il bradisismo invece non fa più acquisti perché non abita più qui. Quindi il risultato è sostanzialmente una desertificazione del quartiere, a cui noi abbiamo assistito con estrema chiarezza e vividezza già dopo la scossa di marzo, e questa trasformazione del quartiere ovviamente è tremenda, perché poi porta con sé una desertificazione, una minor sicurezza, una, in generale un impoverimento che non è solo culturale ma diventa anche economico. Ma infatti, Dario, ci sono, diciamo, la crisi bradisismica ha inciso sul lavoro delle persone, sulla vita quotidiana dei cittadini e delle cittadine, non solo di Bagnoli ma anche degli altri comuni dell'area dei Campi Flegrei o degli altri quartieri come Agnano o Fuorigrotta? Allora, in parte sì, ovviamente parliamo di persone che sono abitanti e lavoratori e lavoratrici dell'area. Chi è solo un lavoratore o una lavoratrice viene visto come una sorta di ospite, quindi non è inciso, nel senso che molte persone che vengono a lavorare in zona, penso soprattutto a Agnano, dove ci sono dei piccoli distretti, Agnano a Coroglio, ci sono dei piccoli distretti di start-up, sostanzialmente lì si tratta di persone che semplicemente in caso di scossa fanno gli zaini e vanno via, perché fanno avanti e indietro tutti i giorni, e già qui ci sarebbe da parlare anche di questi esodi a cui assistiamo quotidianamente sul territorio napoletano. E per quanto riguarda gli altri abitanti e chi lavora in questa zona, sì, ha inciso parzialmente, ovviamente ora veniamo, questo è un periodo che è stato, per fortuna, dopo la scossa leggermente più forte di luglio scorso e con il primo settembre una scossa di minore entità, ci troviamo di fronte a una situazione di semiquiescenza, quindi ovviamente la vita si prova a tenersi stretto il proprio lavoro, però è evidente che tutte le persone che lavorano in questa zona siano estremamente precarie, ma anche chi dovesse essere un professionista, proprietario di un ufficio, se tu hai un tuo piccolo studio, che tu sia un fisioterapista o una terapeuta o un altro tipo di libero professionista, rischi dalla sera alla mattina di trovarti senza un ufficio, senza un luogo dove accogliere gli eventuali clienti. Quindi è una cosa che una livella. C'è chi ha la possibilità economica sta reagendo andando via, ma la maggioranza semplicemente può solo sperare che il fenomeno si attenui, esattamente come poi stanno facendo le istituzioni, che è molto più aberrante. Senti Dario, vivere in un territorio già difficile di per sé è dura. Poi con tutte queste... Scusate, io sento un eco nel... Pronto, mi sentite? Mm? Sì, vi sento. Ah, ok. Allora, no, perché sentivo un eco nelle cuffie. Allora, comunque dicevo che vivere in un territorio è già di per sé difficile, comporta dei sacrifici. Poi con tutte queste cose tra bradisismo, disoccupazione, aumenta quella che è l'impatto psicosociale sulla popolazione, ansia, stress, disturbi da trauma. Esiste un supporto psicosociale e sanitario per gestire tali bisogni? Se intende da un punto di vista istituzionale, ovviamente, e purtroppo no, ricordiamoci che nel quartiere di Bagnoli la ASL, tutti i presidi sanitari sono stati chiusi, la più vicina è la ASL di Via Muispir, anche gli sportelli psicologici ufficiali che si trovavano a Soccavo sono stati anch'essi chiusi, e Dulcis in fondo si prevede anche la chiusura da parte della Regione Campania, forse ora no perché siamo sotto elezioni, quindi si vedrà se cosa accadrà, anche dell'unico ospedale più vicino della zona, che è l'ospedale San Paolo in via Terracina. L'unico presidio, diciamo, gli unici supporti che ci sono quelli che vengono attivati dal basso con l'autoorganizzazione, in particolare a questo punto di vista l'ambulatorio popolare e lo sportello psicologico reciprocamente attivi a Villa Medusa, la Casa del Popolo al Dazio. Anche lì però, anche la Casa del Popolo è stata danneggiata dal sisma, quindi prima di poter essere riattivati a pieno si stanno effettuando tutta una serie di lavori di messa in sicurezza dello stabile per garantire poi un'attività davvero ambulatoriale e davvero di più che di supporto psicologico, di indicazione delle risoluzioni. Anche là noi abbiamo i professionisti e le professioniste dello sportello e dell'ambulatorio hanno deciso di rilanciare, a seguito della situazione che c'è, di rilanciare la lotta per la salute mentale quanto per la salute fisica, appunto attivando strumenti di lotta più forti nei confronti dell'ASL Napoli 1, come facemmo all'epoca della battaglia per la riapertura del consultorio anch'esso chiuso da più di 15 anni, ora in teoria in fase di ristrutturazione, ma di cui appunto non si sa una data di apertura. Dovrebbe diventare una di quelle case di comunità previste dal PNRR. Io scusami, volevo solo aggiungere che comunque Villa Medusa, dopo che hanno sgomberato il Leoncavallo a Milano, e sotto attacco, sotto sgombero. Sotto sgombero no, siamo precisi, perché insomma sarebbe ingiusto verso i compagni e le compagne che hanno ricevuto questa infame misura. Villa Medusa attualmente non è sotto sgombero. Gli spazi occupati di Bagnoli, che sono Villa Medusa e Lidopola, rischiano entrambi per diverse motivazioni. Lidopola perché si trova all'interno dell'area in cui dovrebbe essere creata la diportistica per l'America Scappa, in particolare per il porto di Nisida che abbiamo sopraccitato. Villa Medusa invece viene ritenuto un luogo dove sostanzialmente un luogo di eversione e sedizione, in cui sostanzialmente si organizza la parte del quartiere proletario e popolare che reagisce ai soprusi e che vuole segnalare, evidenziare e intervenire rispetto alle manchevolezze delle istituzioni tutte. Non è un caso che ad averci tirato in ballo siano stati esponenti del centrodestra, non che il centrosinistra sia stato più gentile con noi in passato, c'erano esponenti del PD napoletano che ci avevano indicato come luogo in cui la gente veniva a drogarsi in tempi ormai un po' andati, dato che Villa Medusa ha 13 anni, ma contemporaneamente ci sono persone del centrodestra impegnate nella campagna elettorale delle regionali che ci hanno indicato e poi hanno fomentato i giornali e giornalacci i vari Libero e il Giornale per indicarci come quei luoghi dove sostanzialmente si crea eversione nella città di Napoli. Basterebbe venire a visitare Villa Medusa, come anche nonostante le limitazioni dall'accessibilità fanno tantissime persone di Napoli, dell'area flegrea e ovviamente del quartiere, per vedere che non è affatto così. Villa Medusa è una casa del popolo. Noi, per ribadirlo, ovviamente sappiamo che il modo migliore per smarcarci da queste accuse, oltre ovviamente a rendicontare tra virgolette quello che noi facciamo e a raccontarlo costantemente, è tornare nelle strade del nostro quartiere, quindi fare attività, riaprire la villa il prima possibile in sicurezza, ovviamente riprendere come prima e più di prima tutte le tantissime attività che facciamo e che aiutano e sostengono anziani e anziane del territorio che non hanno un luogo dove andare, e che sostanzialmente Villa Medusa è il motivo per cui venne donata al comune di Napoli ed è il motivo anche per cui noi l'abbiamo riaperta. Bambini e bambine anche con diversi gradi e tipologie di disabilità, anche qui all'interno del quartiere di Bagnoli c'è un luogo, il GIFAS, che è un esempio virtuoso, ma è l'unico esempio virtuoso di tutta Napoli, e poi più nulla. Noi cerchiamo nel nostro piccolo di dare un contributo. E poi tutto il resto, ci sono in questo momento a Villa c'è in corso una presentazione di un saggio, ci sono varie realtà di anonimato per reagire all'abuso di sostanze e uscirne fuori, quindi di sostegno alle persone che purtroppo soffrono di queste problematiche. E ci sono ovviamente anche momenti invece di socialità alternativa che si oppone e che purtroppo la nostra idea di socialità è tutta legata al consumo, non a caso, di alcolici, di anche a volte anche al consumo dei nostri corpi, oltre al consumo di sostanze. Noi qui invece cerchiamo con cene popolari, danze popolari, momenti di aggregazione, di socialità alternativi, di creare una alternativa possibile che anche sia anche transgenerazionale, poiché un altro problema evidente anche qui a Bagnoli è l'invecchiamento della popolazione, ma soprattutto una popolazione che non comunica tra le varie fasce d'età, se non per odio. E lì il prossimo appuntamento, l'Open Day, sarà fine ottobre, intorno all'11 o al 19 ottobre, però abbiamo già un calendario e riguardo il calendario sicuramente un bello appuntamento sarà il 5 ottobre mattina, perché si terrà un mercatino indipendente a chilometro zero in cui parleremo anche della necessità di riappropriarci del nostro rapporto con la terra, quindi tanto la coltivazione quanto il consumo di prodotti che siano non solo naturali ma che abbiano il loro tempo. Quindi in quest'estate ha fatto scalpore la notizia del botulino, di persone morte per il botulino. Dobbiamo riappropriarci di questo rapporto con la terra, tra virgolette, migliore, quindi capire anche che certi prodotti non si trovano al di fuori di certe stagioni, quindi proprio anche di fare una cultura che sia diversa e che non sia più quella del consumo, in cui tu H24, 365 giorni all'anno trovi tutto ciò che vuoi all'interno di un supermercato. Dario, scusami, ritornando al bradisismo, in che misura le politiche di pianificazione urbanistica e di prevenzione del rischio tengono conto dell'impatto socio-economico e se esistono poi proposte alternative, di pianificazione territoriale che sono nate dai comitati, cioè zone di priorità di intervento, protocolli di evacuazione comunitaria, e se sono mai poi state prese in considerazione da chi governa l'area dei Campi Flegrei? Allora, ti anticipo già, non c'è una reale pianificazione dal punto di vista istituzionale, né si è mai pensato a qualcosa di simile come tu l'hai elencato, né di ascoltare le proposte, le posizioni della popolazione, degli e degli abitanti. Quello che c'è da parte nostra, c'è un forte studio attualmente, l'Assemblea Popolare, che comunque si è ricostituita, riconfigurata dopo il bradisismo, ha visto come, dopo la scossa del 13 della notte tra 12 e 13 marzo, ha visto come obiettivo principale quello della messa in sicurezza sismica del territorio e quindi di tutti gli stabili come primo obiettivo. Sicuramente in futuro elaboreremo dei piani più approfonditi, ma in questo momento il nostro primo obiettivo, avendo avuto più di 5.000 persone, se non erro, ufficialmente sfollate, proprio nella primissima fase, più altre 2-3.000 persone non sfollate, ma in grave problematiche, in gravi condizioni abitative, è stato l'obiettivo di far tornare e di fare in modo che il quartiere tornasse a vivere. Dopodiché è ovvio che ci concentreremo anche su quello, ma anche lì il livello che noi vogliamo tenere non è solo dell'Assemblea Popolare, ma di confrontarci e di lottare unitamente con tutti i Campi Flegrei, perché è evidente che in una visione complessiva e comunitaria bisogna tener conto del fatto che quest'area richiede un lavoro complessivo e collettivo che purtroppo le istituzioni storicamente non hanno in nessuna parte probabilmente della nazione, e tantomeno ce l'hanno qui. Senti, tu prima hai parlato anche del contributo all'affitto, che diciamo l'unica parte che lo Stato eroga agli sfollati. Diciamo, questi risarcimenti o indennizi per danni materiali, perdite economiche, hanno incontrato parecchi ostacoli burocratici, cioè i cittadini in che modo hanno avuto difficoltà ad accedere a questi fondi? Sì, ci sono state difficoltà, ci sono state scarse comunicazioni. Lo stesso Dicasi, adesso è attualmente attiva una piattaforma promossa al Comune di Napoli, che era stata attivata anche precedentemente sul Comune di Pozzuoli, in cui si possono richiedere l'accesso a dei rimborsi, in questo caso per i lavori di messa in sicurezza degli stabili. Ovviamente qua non parliamo di messa in sicurezza sismica, ma solo della messa in sicurezza per avere l'agibilità di rientrare in casa. In entrambi i casi ci hanno confermato abitanti e persone dell'Assemblea Popolare di Bagnoli dei Campi Flegrei che richiedono un'estrema competenza e conoscenza della materia per poter essere compilati al meglio e per poter richiedere questi emolumenti, che siano, come nel caso del CAS, dei soldi a fondo perduto, quindi dati e basta, o dei soldi dati al rimborso delle persone. Quello che succede è che in ogni caso si rischia di escludere parte della popolazione. Nel caso del CAS ciò non è accaduto, perché nel momento di, essendo avvenuto l'assegnazione del CAS nel momento di massima lotta, i rapporti di forza ci hanno consentito di fare in modo che il comune di Napoli e chi per esso se ne occupasse dovesse seguire a volte anche uno a uno, perché purtroppo ci sono persone che non hanno accesso al web, non hanno strumenti adeguati, a volte non hanno la cognizione, le precognizioni tali da poter compilare le domande in maniera adeguata, pur e a volte pur avendo diritto, poi rimangono appesi e appese. Io ti facciamo un'ultima domanda. Sì. In che modo l'assemblea documenta, comunica risultati, studi, proposte ai, quindi rapporti, campagne mediatiche, dossier ai cittadini e alle cittadine? E qual è l'impatto di queste azioni sull'opinione pubblica e quindi sugli abitanti del, in questo caso, del quartiere di Bagnoli, e soprattutto sulle politiche dei comuni interessati? Allora, attualmente parto dalla fine, perché l'impatto sulle politiche purtroppo, per fortuna, poi diciamo dipende dal punto di vista che vogliamo adottare, se è proprio positivo o più pessimista. Purtroppo, per fortuna, dipende dal rapporto di forza, quindi dalla capacità mobilitativa, ma anche dalla capacità di smuovere l'opinione pubblica, la visione d'insieme. Quindi purtroppo le istituzioni, sembra che se non arrivi alla loro pancia, che quindi è quella che riguarda poi il consenso elettorale e il mantenimento dei propri privilegi e della propria poltrona, difficilmente si muovano. Quindi questo purtroppo per fotografare una situazione che credo sia comune però a tutto il sistema paese. Per quanto riguarda però l'informazione delle persone, sostanzialmente ci muoviamo su vari binari. Il primo e più banale ovviamente è quello dell'uso dei social media e contemporaneamente dell'uso degli strumenti tradizionali cartacei, quindi volantini, manifesti. Molto spesso riusciamo a fare anche quelle che chiamiamo motorinate, cioè muoverci all'interno del quartiere con dei motorini e fare dei megafonaggi, sostanzialmente delle informative attraverso i megafoni. Quindi questo è un primo livello. Il secondo livello ovviamente è quello che prevede l'utilizzo poi anche dei media tradizionali. Ci sono fortunatamente ancora oggi piccole realtà giornalistiche, alcune indipendenti, autoprodotte, altre un po' meno indipendenti, che danno spazio, come nel vostro caso, anche in questo caso penso rientrate in pieno in quelle indipendenti, però correggetemi se dico una sciocchezza, che danno spazio alla nostra visione, alla nostra, alle nostre attività. Contemporaneamente dobbiamo riconoscere che anche un media mainstream come la RAI, all'interno della città di Napoli e nella particolare configurazione, proprio anche perché ha sede all'interno dell'area flegrea a Fuorigrotta, la RAI, in particolare la redazione del TG regionale, ci ha sempre dato ampio spazio, riconoscendoci il ruolo fondamentale. A volte ovviamente dovendo, diciamo, mutuare, fare questa cosa che abbiamo visto l'altro giorno nel confronto televisivo a carta bianca, di dover prendere le due campane, mentre spesso e volentieri non ci sono due campane, c'è una campana che è quella di chi vive, abita e vuole restare, anzi vuole migliorare un territorio, mettendoci la faccia, perché ricordiamoci che dopo gli eventi degli scontri avvenuti per la passerella elettorale di Val di Tara, Piantedosi e Salvini, abbiamo ricevuto più di 6 denunce, di cui una minima parte a militanti e la maggior parte a abitanti del territorio, anche molto piccoli, neo-diciottenni, quindi un evidente caso di punizione per aver osato alzare la testa e prendere posizione rispetto alla compagine governativa e non solo. E ovviamente poi l'ultimo metodo è quello poi più semplice, è quello di stare in piazza, farsi vedere, parlare con le persone del territorio, avere un confronto costante. che porta le persone ovviamente a essere recettive e costanti. Purtroppo scontiamo in questo caso l'assenza delle istituzioni, ma soprattutto delle istituzioni di prossimità, la decima municipalità, che pure ha una sede qui a Bagnoli, che però non è solamente disattenta, ma è totalmente lontana dai bisogni dei cittadini e preferisce dedicarsi sostanzialmente a un'amministrazione prettamente condominiale, quindi a stento si occupa delle condizioni delle strade, lo ricordiamo perché quando ci fu la scossa e anche nei mesi successivi e anche ora le strade del territorio non consentono una fuga, qualora ce ne fosse bisogno, rapida e sicura, anzi. E quindi questo è l'insieme. Poi l'ultima cosa, ovviamente ci appoggiamo tantissimo a quello che è il passaparola, che quindi le persone essere un riferimento per loro, soprattutto nel fornire una visione che non sia deprimente. Ci dicono che le cose non possono mai cambiare, che tutto deve rimanere così com'è. Noi pensiamo che le cose, se non vanno bene, si possano cambiare. È faticoso, ovviamente, non è facile, ma se fosse facile lo farebbe chiunque. Dario, scusami, solo una curiosità. Aspetta, Raff, dall'ultima volta che ci siamo sentiti, ma piano di evacuazione è sempre lettera morta, diciamo. Sì, de facto sì, perché viene visto un piano di evacuazione solo in caso di eruzione vulcanica, e l'altra problematica è che non ci sono vie di fuga adeguate, e anzi per l'attuale urbanistica che sta prendendo il territorio, penso ai lavori attualmente in corso tanto a Pozzuoli quanto a Fuorigrotta, si sta rendendo veramente difficile la vita quotidiana nel territorio, figuriamoci nel caso in cui ci dovesse essere una situazione più grave che richiede un'evacuazione. Sostanzialmente è tutto demandato al Dio ci assista, se Dio esistesse. Dario, noi ti ringraziamo per essere intervenuto a questa puntata speciale di Ponte Radio dedicata alle fragilità del territorio. Se vuoi di dire i prossimi appuntamenti a breve, sia come comitato cittadini di Bagnoli, sia come anche militante del collettivo Iskra. Allora, ribadisco i primi due più vicini e fondamentali, sperando che la puntata, non so quando va in onda, quindi quando andiamo in onda. Domani. Domani, perfetto, allora ottimo. Lunedì 22 dalle ore 15 all'ex base NATO, gli abitanti di Bagnoli saranno in piazza per richiedere a Mattarella, Presidente della Repubblica, un incontro per smuovere la situazione, adeguare le leggi a quelle che sono delle chiare richieste del territorio e che sono state già rigettate dal governo per miopia istituzionale o non volontà di sostenere il territorio. Ovviamente una data particolare e unica, perché lunedì ci sarà anche uno sciopero indetto dai sindacati di base a sostegno del popolo palestinese e contro quindi la vendita delle armi. Ovviamente è ovvio che l'economia di guerra non va d'accordo con la messa in sicurezza del territorio, e quindi chiederemo anche di prendere posizione in merito a questa situazione incredibile, dove le persone sui territori per alluvioni, per terremoti, per fenomeni naturali muoiono, e poi contemporaneamente sosteniamo la morte antropica che provochiamo noi con le nostre armi in altri luoghi. Il secondo appuntamento è due giorni dopo, mercoledì 24, sempre il pomeriggio, alle ore 15 ci vediamo per partire insieme, perché noi, come ci insegnano i compagni e le compagne in Valsusa, partiamo e torniamo insieme sul nostro territorio, prenderemo la Cumana, sperando che sia puntuale, per andare alle ore 16 al Consiglio Comunale di Napoli, convocato al Maschiangioino dal sindaco e commissario per l'exit al Sider e anche, credo, commissario sull'America's Cup, gli piacciono i ruoli multipli, su Bagnoli. Quindi per ribadire al Consiglio Comunale di Napoli che Bagnoli e dei suoi abitanti, gli abitanti hanno un'idea ben precisa di cosa vogliono fare, di come vogliono vivere qui su questo territorio, lo ribadiremo nuovamente al Consiglio Comunale di Napoli, recandoci lì e appunto non solo prendendo la parola, ma prendendoci anche il protagonismo che poi dovrebbe essere del popolo, secondo la teoria secondo cui siamo in democrazia. Mario, grazie. Grazie a voi, ragazzi. Grazie ancora. Saluti a tutte e tutte gli ascoltatori e le ascoltatrici. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.